Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Mod Corino di Zalab per l'uscita sulla loro piattaforma del documentario This is not cricket di Jacopo De Bertoldi, giovedì 7 maggio 2020. Mod, ben trovata. Grazie, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti. Allora, una novità, però partiamo un attimo da lontano, perché per tutto il periodo di quarantena Zalab non è stata ferma, la sua piattaforma si è riempita di titoli. Ci racconti un po'? Sì, noi avevamo messo su in realtà questa piattaforma a ottobre, un po' in sordina, pensando soprattutto ai titoli, insomma, che Zalab aveva in catalogo e che abbiamo sempre distribuito, insomma, in sala. E a ottobre però ci eravamo detti, comunque ci sono persone, luoghi che non riusciamo a raggiungere, che per vari motivi, anche solo perché sta cambiando il modo di fruire i film, non vanno in sala, e ci piacerebbe però che avessero la possibilità, al di là di tutte le piattaforme esistenti e molto più grandi di noi e di cinema vario, di vedere il cinema che ci piace. Quindi siamo partiti dicendo, vabbè, mettiamo ogni 2 mesi 4 film in una sorta di abbonamento, che appunto non voleva essere tanto una piattaforma con tanti titoli, ma una proposta specifica con un piccolo percorso del cinema che ci piace. Quindi chiaramente abbiamo iniziato dai titoli che abbiamo distribuito storicamente, da Il pianeta in mare di Andrea Segre, da altri film di Andrea, da titoli internazionali che avevamo distribuito negli anni precedenti, L'Estotter, Untitled, insomma il nostro catalogo classico. E poi piano piano, già prima del lockdown eccetera, ci aveva un po' preso la mano questa cosa, per cui avevamo a Natale cominciato a proporre selfie di Agostino Ferrente, poi Le cose belle eccetera. Poi chiaramente questo periodo ci ha obbligato e spinto a far crescere l'offerta dei film online. Quindi quello che stiamo facendo dal lockdown è proporre, vabbè, abbiamo ormai 20 titoli fissi in catalogo, e poi proporre ogni settimana un nuovo film documentario, con l'idea sempre di avere dei film che ci permettano anche di fare un po' di comunità e quindi di chiacchierare, confrontarci con gli spettatori. Per cui ogni giovedì in questo periodo esce sulla piattaforma che si chiama Abbonamento Zalab, che si trova su www.zalab.partecipa.org. Ogni giovedì esce un nuovo film documentario e ogni lunedì c'è una diretta Facebook e YouTube, insomma, in cui invitiamo una serie di ospiti. Questa settimana, giovedì, esce This is not cricket, che è un po' una proposta speciale perché è un documentario che ha partecipato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città e che avrebbe dovuto avere un suo percorso in sala, chiaramente non è stato possibile, e quindi siamo molto molto contenti perché con Mir e Rai Cinema, insomma, abbiamo deciso di proporlo sulla piattaforma, ed è un documentario a tutti gli effetti nuovo, che racconta la storia di questi due ragazzi che il regista Jacopo De Bertoldi ha seguito fin dall'infanzia, cioè da quando, insomma, hanno iniziato a giocare a cricket. Uno dei due è indiano e l'altro è un ragazzo, insomma, con origini siciliane. Insomma, si trovano tutti e due da ragazzini e grazie a questo sforzo a diventare amici, e poi è un po' la storia di come diventano adulti. Quindi anche questo titolo, This is not cricket, è un film sul cricket in parte. su questo gioco anche affascinante, in qualche modo lontano, e poi insomma su come diventano adulti, e anche sul fatto che pur essendo poi di due mondi diversi, cioè, insomma con origini diverse, poi le domande che si fanno sul futuro, sul trovare il proprio posto, sono molto simili in questa amicizia, ecco. Per quanto riguarda le giornate del lunedì, è previsto un incontro con il regista? Questo incontro in realtà l'abbiamo già fatto e si può ritrovare sul nostro Facebook, perché era un po' per i nostri abbonati un film che di cui abbiamo fatto una sorta di uovo di Pasqua e regalo di Pasqua, mentre invece insomma poi sui film che proponiamo per tutto il mese ogni volta ci sarà una diretta. Questo sarà il mese in cui vi riproporremo Il sangue verde di Andrea Segre, e quindi ci sarà poi un appuntamento dedicato all'agricoltura, alla questione dei braccianti e delle regolarizzazioni. Abbiamo proposto per il 1° maggio, e si trova chiaramente online, Il pane a vita, che è un film di Stefano Collizzolli che venne girato nel 2012 su una fabbrica nella Bergamasca che stava chiudendo, c'era una fortissima lotta sindacale, e questo ci dà un po' lo spunto per lunedì 11 maggio per parlare un po' di lavoro di questi tempi, ecco. Allora chiudiamo con tutti i riferimenti. Sì, il sito di Zalab, che è www.zalab.org, e la pagina specifica dedicata ai film disponibili online è www.partecipa.zalab.org. Sì. Trovate tutto il catalogo dei film, le varie modalità in cui uno può sottoscrivere questa sorta di abbonamento e può partecipare anche sugli scambi della comunità che lì si incontra online. La piattaforma Zalab è il nuovo titolo di This Is Not Cricket di Jacopo De Bertoldi, disponibile da giovedì 7 maggio 2020. Un saluto e un ringraziamento a Mod Corino. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Sì, ricambio. Alla prossima, un abbraccio. Grazie mille. Con Emanuela Rossi, regista del film Buio, in piattaforma digitale da domani, da giovedì 7 maggio 2020. Emanuela, ben trovata. Ciao, salve a tutti gli ascoltatori. Ecco, per chi ci sta ascoltando, come lo presenteresti, come lo racconteresti in breve? Allora, è stato difficile, però allora, Buio diciamo, è stato girato chiaramente in tempi non sospetti, però diciamo parla di quarantena, perché ci sono queste tre ragazze molto piccole che vivono in questa casa buia con le finestre oscurate, perché e quando torna il padre la sera alle 7 dice, racconta insomma di questo mondo fuori assolutamente devastato, e soprattutto il sole brucia troppo, quindi questo sole che impedisce insomma alle bambine di stare all'aria. E quindi loro insomma lo accolgono con le mascherine, quindi c'è proprio tutto, no, i passaggi che adesso conosciamo bene, e c'è un forno disinfestatore, diciamo, c'è del cellophane, e quindi diciamo nel giro di pochi mesi quello che sembrava un film assolutamente distopico mi sono ritrovata a fare un film d'attualità. Sì. Dove era partito tutto? Da una doppia cosa. No, diciamo che io ho un po' una visione per certi versi un po' claustrofobica della famiglia, e non necessariamente negativa, ma sicuramente un po' claustrofobica, e questo è un primo aspetto. A questo poi si è unito un senso di soffocamento rispetto all'ambiente, cioè mi spiego, da un quanto tempo io ho cominciato a sviluppare proprio una paura rispetto agli eventi ambientali, no? Che sento che si stanno avvicinando, no? E soprattutto negli ultimi stati ho cominciato a pensare che facesse troppo caldo, cioè veramente, tra l'altro io sono in una casa qui a Roma senza, diciamo, aria condizionata, ma non è questo il punto, no? Semplicemente davvero fa troppo caldo, allora ho cominciato a pensare, ma se venisse così tanto caldo che non potessimo uscire, no? Che succederebbe? Cioè, in questo mondo così globalizzato, così aperto, così tutto, no, connesso, sentiamo un po' tutti che io almeno sentivo già da anni che si comincia a dover stare sempre più protetti, più chiusi, capisci? Da questo è nata un po' l'idea di tutto. Com'è stata la lavorazione? La sceneggiatura è stata assolutamente scritta di getto, mi ricordo in circa un mese avevo già fatto, no? Quasi senza scaletta, sono andata veramente di getto. Poi però c'è stata chiaramente una rielaborazione lunga e invece sono stati vari passaggi, a un certo punto sembrava che dovessero farsi in Francia, ma io non ero convinta perché sentivo che volevo che fosse italiano, cioè un film così particolare secondo me fatto in Italia ha più forza, credo, no? E con attori italiani, anche perché non siamo abituati a vedere, no, i nostri attori con le maschere, respirazioni, con paesaggi distopici, cioè mi sembra abbastanza interessante questo, no? Ma perché probabilmente non siamo, ma anche i tecnici, no? Fai conto lo scenografo, io mi ricordo all'inizio mi diceva ci facciamo ridere dietro per certe cose che non sto a dire, vabbè, tipo un tunnel, così dice no, ci facciamo ridere dietro perché non siamo abituati, e invece poi diciamo che tutte queste cose mi sono rivelate un po' la forza del film, perché poi sono diventate assolutamente comprensibili, perché no, abbiamo capito che cosa vuol dire una camera di decompressione, abbiamo capito i guanti, abbiamo capito tante cose, insomma. Nella tua storia che ruolo ha il genere? Voglio avvisare gli spettatori anche per poi non sembrare che io li inganni, no? Il film è un film d'autore con dei forti, con delle forti connessioni con il genere, e quindi insomma non si aspettino un disaster movie, per carità, perché non è questo il film, non ci sarebbero stati mezzi, non competiamo con gli americani, per carità, ma non mi interessava neanche. Quindi c'è questa storia familiare in cui si innestano queste forti connessioni con il genere. Per quanto riguarda me, io sono sempre stata una spettatrice, diciamo, di film classici, anche se poi devo dire che da piccola amavo tantissimo Hitchcock, no, che passava in televisione, e quello veramente mi è rimasto, oppure altri tipi di film un po', non so, Piano piano Dolce Carlotta, no, è presente, quindi molto diciamo un po' adrenalinici. Poi che è successo? Che ho fatto per due anni, negli ultimi anni, due anni la serie TV Non uccidere come co-regista, e due anni sono tanti, per cui 10 ore al giorno, almeno 6-7 scene di film thriller, cioè di scene thriller, omicidi, scene del crimine, e sono stata tanto anche all'Obitorio di Torino, e devo dire questo impatto con l'Obitorio soprattutto è stato fortissimo per me, cioè soprattutto mi ricordo il primo giorno questo odore della formaldeide e il tavolo dove stendavamo le comparse, diciamo, che dovevano sembrare morte, no? Quella cosa è stata fortissima e questo mi ha fatto venire voglia di genere, questo, no? Questo sangue che ho visto tanto mi ha fatto venire questa idea di fare un film su questi argomenti. E devo dire però lì ho capito anche, lì all'Obitorio di Torino ho capito anche una cosa molto importante, che con queste cose non si scherza, perché stando dentro un vero obitorio capisci che cos'è la morte, quindi devi fare un film con rispetto di questi argomenti perché sono molto seri. E il ruolo del genere femminile? Trovo che il film d'autore con queste immersioni del genere si rivitalizzi, cioè trovi forza e trova contatto con lo spettatore che forse è un po' stanco di film, da una parte troppo d'autore, da una parte troppo commedia o comunque no, troppo semplici. Una via di mezzo secondo me è forte. Io intendevo anche il ruolo delle donne nel racconto. Allora, diciamo che questo film è veramente alle donne, perché al di là del fatto che io sono una donna, ma comunque insomma le protagoniste assolute sono, e di questo sono molto fiera, sono tre ragazzine deliziose, devo dire, insomma, di queste tre ragazzine che sono Denise Tantucci, Gaia Bocci e Olimpia Tosatto, e poi c'è il padre che è Valerio Pinasco. E normalmente in questo tipo di film, no, di interno familiare, il padre ha sempre questa grandissima presenza, no? Dominante, dominatrice, e in qualche modo anche qui c'è, però questa volta io ho fatto proprio di proposito e questo c'era già nella sceneggiatura, l'azione di dare più importanza alle protagoniste. Cioè il padre sì, però la macchina da presa, l'attenzione è puntata su di loro, ad altezza loro, e una bambina a 4 anni, e quindi insomma con le complessità di girare con una bambina di 4 anni, però ho dato a tutte un ruolo vero e proprio. Cioè di questo sono veramente contenta, soddisfatta, cioè non sono dei caratteri così classici, le povere bambine, cioè sono proprio dei caratteri, dei personaggi veri e propri, soprattutto poi la prima, Stella Benistantucci, è proprio un personaggio estremamente complesso, con tutte le complessità che hanno le donne, e trovo che insomma che è arrivato il momento di creare personaggi femminili così, diciamo, che non sono vittime ma sono partecipi, sono attive nel loro cambiamento. Infatti proprio questo è un classico romanzo di formazione di Stella, che fa un percorso di crescita rispetto al padre, ma anche proprio rispetto a se stessa, cresce, però non posso svelare di più perché poi... Certo. Che uscita sarà? Chiaramente prima della pandemia noi eravamo pronti per pensare all'uscita in sala, era già il 7 maggio, no? E poi colpo di scena, chiude tutto. A questo punto, visto che siamo un film così particolare, indipendente fin dall'inizio, perché proprio questo è un vero film indipendente fatto insomma, diciamo, con poco, ma non di poco, perché ci sono effetti speciali molto importanti, ci ha aiutato una casa di produzione, diciamo la Frame by Frame, a fare degli effetti speciali molto importanti. Diciamo, allora questo, abbiamo continuato il percorso di essere indipendenti, per cui e innovatori, per cui usciamo in streaming su My Movies. Però oltretutto il protagonista, produttore, che è Claudio Corbucci, ha inventato un sistema che coinvolge le sale cinematografiche, per cui non è più, diciamo, solo streaming, che sarebbe insomma penalizzante verso le sale cinematografiche, ma attraverso un sistema le sale ci portano spettatori, cioè e fanno pubblicità al loro bacino d'utenza, e noi gli riconosciamo una percentuale. Quindi in qualche modo ci sentiamo di uscire anche in sala, e siamo riusciti a coinvolgere 60 sale in tutto il territorio, che trovo che sia straordinario. Hanno aderito in pochi giorni, sono molto contenti, attivi già sui social come matti, quindi bene. Buio di Emanuela Rossi su My Movies da giovedì 7 maggio 2020. Un saluto e un ringraziamento alla regista, a risentirci presto, un in bocca al lupo. Beh, grazie davvero e guardatelo. Con Lara Rongoni, regista della serie Stili Ribelli, in onda su Sky Arte il 6 maggio, il 13 maggio, il 20 maggio, in doppia sessione, si tratta di 6 episodi. Lara, ben trovata. Grazie a te, grazie a tutti. Ci racconti? Stili Ribelli è una serie in cui in ogni puntata, partendo da un capo d'abbigliamento iconico, ce ne racconta la storia e le sue connessioni con il cinema, la moda, la società, ma soprattutto con le sottoculture musicali. Com'era nato tutto? L'idea nasce da una trasmissione radio che conducevo con un'amica, dove appunto creavamo delle playlist musicali a tema ispirate a qualche capo d'abbigliamento. Dopodiché, siccome la radio era solo una passione, ma il mio lavoro appunto è occuparmi di televisione, di documentari, ho adattato il format radiofonico al linguaggio televisivo ed eccoci qua. E come hai individuato i vari capi, i film, le musiche? Beh, allora, chiaramente c'è stato un lavoro di sviluppo molto lungo, ho fatto tantissimi, diciamo, abstract di tanti temi, perché comunque di indumenti, di accessori, comunque iconici ce ne sono tantissimi. Dopodiché con Sky Art abbiamo deciso di partire da 6 e quindi ho dovuto concentrare la ricerca, diciamo, su 6 e tra la lista degli intervistati, tra i materiali d'archivio che avevamo trovato e tra tutta una serie, diciamo, di questioni